ti shorty. Ti crica, ti arrivo, guardi e ci venio su. Che tutto illuminò, non ti capisci cosa segge, ma ti assenti. A sensazione de seligo a questa terra dai primi momenti. A te serne le, a te sta prove come a fisse tue mue. E se ti nutine qua, de sentila, de amiala, de capire, rispettala. Non ti cresci, non sa riesci ad andare lontan senza i rage. A sta quei guys se cui passi ti accalpesti. A nu saraggia, manco cui furesti. Paesaggi stupendi, sciupe sue monte. Discese valli verdi, bagnè dai rie. U vento e l'orizzonte, creuse sciupe un monte. L'aia da un mao, dude sacco se diffonde. Fin antipaci dell'entroterra, fin a dove se lottava quando è che anche una guerra. E le cusci che matron ci sente andando a pesci per i bricchi de re a messi te. Dove a luce le speciale qua su immensi te. Lontanti vedi ma in tu meso a che sta le. Discesa ante un abbraccio tra i monti o ma le chi che me sento a ca. Cui so burghi e so e bunte. Cui so veggi me ste. Fin da ficcingo de tui primi respiri. Mi non purio scordala. Perché sei un cume prie in da terrassa. Da sua storia millenaria. Si menne vete, ripara d'inverno. Quando vento farà già umà, un pane inferno. In prima veglia, qui perseghi in fiore. De stenughe parole, nel respiro tue colure. D'autunno, un profumo de rustia. Na pe funzi pe fautucu, que meji me compagnie. Se ciove troppo su un disastre che da cianze. Ma che disueni pe sta terra, pronti a spaccasse brasse. Per casuli d'aria e tele c'è importante. Nulle beacche niatri, semmo solo pe palanche. Semmo preoccupè, pena vegni senza certezze. Vo riescimo in low fisso, mica ricchesse. Na botta patria de pesquei e de mainè. O a fabbriche serè, e cascente gre. E quante cemento de botte anche in sciucche. Me dan brividu pensa come muvei e come se monche. Ma su una sciucchi e prima nu capivo. Ti cammini in scena strada, che è sempre emotivo. Foscia inutile, ma mi so. Mi te ringrazio, in fondo te devo quello che go. Discesa ante un abbraccio tra i monte o ma da chi che me sento a ca. Cui so burghi e so e bunte. Cui so veggi me ste. Fin da ficcingo dai tui primi respiri. Mi non purio scordala. Perché semmo come prie in da terrassa. Da sua storia millenaria. De volte pui a denu faghe la ciù. Me vegno magun, me sento ti a su. A lui attacco a scrive con questo linguaggio. Sai a come ricorda i vegi ma o me dà tanto coraggio. Penso a orie che se semmo feti, come ti e contavi ti, noi contava nessun. O a semmo distanti e ti mami da lasciù. Ma un ricordo resta bello come a nostra region. Discesa ante un abbraccio tra i monte o ma da chi che me sento a ca. Cui so burghi e so e bunte. Cui so veggi me ste. Fin da ficcingo dai tui primi respiri. Mi non purio scordala. Perché semmo come prie in da terrassa. Da sua storia millenaria.